Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24 è il numero di telefono al quale potete accedere per rispondere a due domandine che oggi però sono francamente un po' difficili per tutti noi, a partire da chi vi parla. Parliamo del rapporto complesso, drammatico, traumatico, ma anche pieno di speranza tra gli ebrei e i cristiani. E ne parliamo sull'onda dell'attualità, sull'onda di quello che è effettivamente successo in questi giorni, in queste settimane, e che sta continuando a succedere, se vogliamo dir così, in queste ore. La famosa questione apertasi del vescovo negazionista, cioè del vescovo che 20 anni fa fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché creato in modo illegittimo fuori dal canone cattolico nell'ambito della comunità scismatica dei tradizionalisti lefebriani, il vescovo Richard Williamson, che nega le camere a gas, il che non è un giudizio storico naturalmente, perché dei forni crematori, comprese le camere a gas, possediamo perfino insomma, la fatturazione, la documentazione diciamo più elementare, e tutti i tentativi di dare dignità storica a questa negazione sono falliti. È una fede, uno ha fede nel fatto che le camere a gas non ci sono state. E perché ha questa fede? Perché proclama che gli ebrei non sono stati sterminati, gli ebrei d'Europa, ma insomma c'è stato sì, piccoli episodi di violenza nell'ambito della guerra. Perché uno dice questa follia? Perché uno va contro i dati della realtà raccolti dagli storici? Lo fa perché vuole sottrarre ciò che gli sembra una fonte di legittimità storica del dolore, della memoria degli ebrei nella tremenda vicenda di ferro e di fuoco del Novecento. Lo fa perché vuole avallare l'idea che in fondo la missione dei totalitarismi è stata una missione compiuta senza la macchia del genocidio, senza la macchia della Shoah, cioè della catastrofe, dello sterminio degli ebrei d'Europa. E questo vescovo è stato riammesso per un atto di paterna sollecitudine, di misericordia, da Benedetto XVI in una comunione che ancora non è piena, non è definitiva, sono ancora sospesi a divinis, quindi con la Chiesa Cattolica, nell'ambito di una, diciamo, come si può dire, di un... È un atto autonomo della Chiesa, canonico, no? su se stessa. La Chiesa è il problema dell'unità, il servizio all'unità, dice il Papa, e quindi per recuperare uno scisma hanno compiuto questo gesto. L'hanno compiuto probabilmente nel momento più sbagliato e nelle forme più sbagliate, e fino all'udienza del mercoledì, cioè di ieri, di Benedetto XVI, sembrava che la furia, il dolore, la rabbia, l'indignazione del mondo ebraico contro questa decisione del capo dei cristiani dovessero divampare senza misericordia. E in realtà adesso le cose si vanno un po' sistemando, ma restano due domande, come dicevo all'inizio, veramente difficili da porre. Non è difficile solo rispondervi, ma anche porle. È stata una gaffe, diciamo, della Curia Romana, di coloro che preparano le carte del Papa, stabiliscono i tempi del suo muoversi sul proscenio, o quello del rapporto tra ebrei e cristiani è un problema aperto, nel senso che ancora oggi, nonostante il Concilio Ecumenico Vaticano II, nonostante la proclamazione aperta della libertà religiosa da parte della Chiesa Cattolica, c'è ancora un problema aperto di rapporto tra i cristiani e gli ebrei. Seconda domanda, è un problema aperto oppure c'è un'aggressione strumentale al Papa e al Vaticano? Cioè queste critiche feroci, questo tentativo di far sanguinare la ferita fanno parte di una ostilità, di una inimicizia crescente che magari anche per responsabilità del Vaticano, della Chiesa Cattolica esiste tra il mondo laico, il mondo dei mass media, il mondo... diciamo che sta fuori delle mura della Chiesa stessa. Allora, riformuliamo questa domanda difficile. Cristo era un giovane ebreo. Sua madre, Maria, era una giovane ebrea. Il contesto in cui Cristo ha predicato era ebraico. Cristo ha detto: io sono il figlio di Dio. Gli ebrei non gli hanno creduto. Gli ebrei attendono ancora il Messia, vivono ancora in una prospettiva messianica. Questo ha comportato ovviamente da 2000 anni come dire, una sorta di dramma teologico che nessuno può negare. Però si pensava che nel Novecento questa differenza cruciale sulla questione del Messia fosse stata, non dico composta, ma sistemata in modo tale da non generare più equivoci drammatici, da non generare più da parte dei cristiani quel sentimento, quel moto del profondo anche di una parte della loro storia che è stato l'antigiudaismo. Secondo Gad Lerner su Repubblica oggi, per esempio, la questione è teologica, cioè finché i cattolici, i cristiani di rito cattolico in particolare, non trovano un posto giusto agli ebrei nella loro versione teologica di come è fatto il mondo, il problema del rapporto con gli ebrei non si risolverà. Giorgio Israel, professore di matematica all'Università di Roma La Sapienza e intellettuale ebreo molto attivo nei rapporti con i cristiani e all'interno delle comunità ebraiche. Israel, ha ragione Lerner, c'è un problema teologico, cioè c'è un contrasto irrisolvibile se non si fa un progresso teologico? Ma il contrasto c'è, in certo senso è irrisolvibile. Il problema è di interpretarlo al modo giusto. Io penso che negli ultimi, io apprezzo quello che ha fatto Benedetto XVI e diciamo il cardinale Ratzinger prima, nel senso che effettivamente ha tentato di inquadrare il dissenso teologico in una forma compatibile con la tolleranza reciproca. È molto complicato, ma secondo me è possibile. E il problema è che naturalmente ci si muove sul terreno minato da, come dicevi prima, da 2000 anni di incomprensione, di antigiudaismo diffuso nel mondo cattolico, ed è chiaro che alcuni decenni non sono sufficienti a liberarci di questo. Se poi ci sono degli incidenti, delle pietre sul cammino come queste, si rischia di andare incontro a degli arretramenti. Quindi comunque, incidente, pietra di scandalo, diciamo gaffe, chiamiamola come vogliamo, secondo lei non ci sono ragioni profonde di natura teologica che spiegano la persistenza di questi equivoci? Mi pare di capire che lei non è d'accordo. Ma le ragioni, un dissenso teologico profondo c'è. Il cristianesimo e l'ebraismo sono diciamo legati proprio da questo profondo dissenso sul tema del messianismo. Il paradosso è che si tratta delle due, diciamo, sole religioni messianiche, e questo è proprio quello che le unisce. E al tempo stesso è quello che le divide, certo. È questo che le divide. Ora però, diciamo, quindi questo in qualche modo è irrisolubile, però la storia ci insegna che in realtà in 2000 anni le posizioni sono anche cambiate, apparentemente in modo impercettibile, in realtà alla fine in modo sostanziale, da entrambi i lati. Per esempio un grande pensatore dell'ebraismo come Gershom Scholem ha scritto un libro che tra l'altro è stato ora tradotto in italiano, sul messianismo ebraico, in cui ha spiegato che c'è stato un influsso reciproco, nel senso che il messianismo è visto dall'ebraismo in modo più terreno, diciamo, come qualcosa che viene sulla storia del mondo, e questo, e mentre in modo più spiritualistico dal mondo cristiano, ma c'è stata una interazione reciproca per cui le posizioni sono cambiate. Sì, paradossalmente è anche la tesi di Ratzinger, del Papa, e prima che del Papa, del cardinale Ratzinger quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Cioè il Papa dice: io sono diffidente sul dialogo tra le religioni come dialogo interreligioso, mi piace come dialogo culturale sul senso e sul significato nel mondo del messaggio religioso, ma intorno alla verità religiosa è molto difficile dialogare. E Ratzinger dice e ha detto: Solo con gli ebrei, invece, questo dialogo proprio interreligioso ha senso, e nel suo libro su Gesù di Nazareth fa questo dialogo parlando con il rabbino Neusner, discutendo con lui, interloquendo con lui, perché appunto l'antica e la nuova alleanza sono radicalmente, diciamo, collegate dentro i libri, dentro la scrittura, dentro il passaggio dalla profezia di Mosè a quella di Gesù, al messianesimo cristiano, insomma, al messia cristiano. Anche... Paolo da Treviso. Paolo. Rara. Sono contento di sentirla oltre che di leggerla. Sì. Io volevo dirle questo, io sono cristiano e non ho assolutamente alcun tipo di pregiudizio verso gli ebrei, anzi, penso che la Chiesa, per quanto riguarda la questione degli scismatici, abbia semplicemente svegliato i tempi, si è stata un po' rotta, ma nella sostanza non ci sia proprio nessuna, come dire, convalida delle teorie folli di Williamson, tra l'altro storicamente insostenibili. E io posso dirle anzi una cosa che condivido pienamente, il discorso che ha fatto Benedetto XVI sulla questione del dialogo religioso. E per paradosso, io come cristiano addirittura potrei aderire, ripeto, un paradosso, aderire a certe tesi come quelle del libro che lei sicuramente conoscerà, di Leon Bloy, dagli ebrei la salvezza, quindi anche gli ebrei strumento di salvezza. Io guardi, semplicemente posso dire questo, che quando incontro un ebreo e ne conosco, non vedo l'ora di confrontarmi con lui, di parlare con lui per conoscere la cultura, parlare di religione. Per me potrei dire quasi una gioia. Bene, grazie Paolo, mi sembrano parole molto belle. Sandro Magister, vaticanista dell'Espresso, gli trasferiamo questa piccola verità detta da Paolo di Treviso. Hanno sbagliato i tempi, e sbagliare i tempi a volte può essere drammatico, cioè noi abbiamo avuto una serie di cose. C'è stata una protesta dei rabbini italiani perché Benedetto XVI, restaurando la liceità del culto latino, del messale latino, ha reintrodotto nella preghiera del Venerdì Santo, il giorno della crocifissione di Nostro Signore, che cosa ha introdotto? Ha reintrodotto delle parole che parlano della illuminazione degli ebrei. Alcuni rabbini si sono sentiti offesi, hanno detto non va bene, questo significa che voi volete fare proselitismo, che volete annullare la nostra alleanza con Dio, la nostra, insomma, hanno protestato. E il cardinale Walter Kasper, che è un grande tessitore del dialogo interreligioso e un autorevolissimo principe della Chiesa, ha detto: no, vi sbagliate, noi non vogliamo convertirvi, noi diciamo l'illuminazione nel senso escatologico, cioè quando verrà il regno, quando ci sarà la fine e l'inveramento e la realizzazione messianica dell'umanità nel divino, allora certo, insomma, ridimensionando il senso appunto grettamente proselitistico e particolaristico della preghiera del Venerdì Santo secondo l'antico messale. Poi è venuta la storia del lager di Gaza, Renato Raffaele Martino. Definizione inappropriata, diciamo, per dirla con un eufemismo, per dirla all'americana, all'anglosassone, ha detto Gaza è un lager nelle mani dell'esercito di Israele, e non va bene perché sappiamo cos'erano i lager erano molto diversi da Gaza. Poi questa roba di Williamson, cosa ne pensa Magister? È stata una gaffe? Ecco, guardi, quello che lei ha detto adesso mi conferma nell'idea che non è un problema di tempi sbagliati o scelti malamente, perché in qualsiasi altro momento probabilmente si sarebbero posti dei problemi molto seri, qualsiasi gesto fosse stato compiuto da parte del Papa e della Santa Sede. La mia convinzione è che piuttosto all'interno di una linea abbastanza nitida e rigorosa, che è quella di Benedetto XVI, si sia mosso un notevole disordine dentro la Curia Vaticana, con il risultato di non rendere comprensibili all'esterno le vere modalità e i veri contenuti di queste decisioni. Cioè, secondo me c'è stato in buona misura un fortissimo difetto di comunicazione. Faccio soltanto un piccolo richiamo per dare l'idea di questo difetto di comunicazione. La notizia della revoca della scomunica ai quattro vescovi lefebriani è stata universalmente interpretata come un riaccogliere il lefebrismo dentro la Chiesa Cattolica. cosa che è assolutamente irreale, non corrisponde affatto al gesto compiuto. La scomunica dei quattro vescovi era stata nel 1988 il culmine estremo di un cammino scismatico che aveva separato seccamente il lefebvrismo dalla Chiesa Cattolica. Quello era stato il culmine. L'idea di Benedetto XVI è quello di cominciare a fare un cammino ritroso e partendo anche dal toglimento di questa scomunica che era l'elemento culminante della divisione, ma la divisione resta tutta. Ecco, però come ha precisato il Papa dicendo dovete sottomettervi alla mia autorità e a quella del Concilio Ecumenico Vaticano II, non è che la Chiesa diventa lefebriana, casomai certo. I lefebriani rientrano umilmente nella Chiesa. Certo, quindi rientreranno, sì, perché sì. Tutto da vedere. Sì. Appunto... La scelta dei tempi è stata quella di collocare questa decisione all'interno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, e uno dal punto di vista teorico direbbe ottima scelta, in secondo luogo alla vigilia quasi della memoria della Shoah, nella giornata mondiale della memoria. Anche questo uno poteva dire teoricamente una buona scelta, perché si sa che l'efebrismo ha dei connotati antigiudaici abbastanza marcati e quindi poteva in qualche modo essere detto esplicitamente nell'atto di comunicare questa revoca della scomunica ai quattro vescovi lefebriani che questo diventava un cammino auspicabile di riavvicinamento alla Chiesa Cattolica in un dialogo che avrebbe potuto togliere di mezzo gli elementi di divisione e nello stesso tempo un ravvedimento sulle questioni dell'antigiudaismo che sono tipiche del mondo lefebriano che dovevano essere comunque anch'esse messe sul terreno del confronto. E questo non è stato fatto assolutamente, quindi il grande disordine ha prodotto a sua volta... Il grande disordine, esatto. Sì, mi sembra una diagnosi tutto sommato realistica. 800 24 00 24, arrivano un sacco di telefonate, ormai ci possiamo permettere di tutto, anche della teologia, a parlare con l'elefante di teologia, insomma è curioso, ma ne arrivano tante. Elisabeth dalla provincia di Pavia. Elisabeth. Pronto, buongiorno dottor Ferrara. Sì, buongiorno. Allora, ascolti, intanto vorrei citare un versetto della Bibbia della Genesi che Dio dice ad Abramo, chi benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Allora, il rapporto tra Israele e il cristianesimo, diciamo tra gli ebrei e i cristiani, c'è bisogno di essere teologi per scoprirlo, perché basta leggere il Nuovo Testamento, soprattutto la lettera ai Romani. Israele è tuttora, come dice la Bibbia, il popolo eletto. Gesù ritornerà sulla terra, e questo l'avevano detto gli angeli agli apostoli sul Monte degli Ulivi, che questo è scritto nel libro degli Atti, che Gesù tornerà nello stesso modo in cui è asceso al cielo e prenderà possesso in carne e ossa del regno di Davide a lui promesso e governerà su tutte le nazioni del mondo. L'antisemitismo ha radici profonde per una questione ovvia: Gesù è ebreo, questo tutti lo sanno e non bisogna dimenticarlo. Dio ha fatto delle promesse al popolo ebraico e lui le manterrà, perché Dio non rinnega le sue promesse. Un'altra cosa, l'antisemitismo è anche dato, so che molta gente non ci crede, anche cristiani, è colpa di Satana. Satana cerca di distruggere il popolo eletto, come l'ha fatto nella storia. Cerca di farlo tuttora sotto altre forme, ma lo fa tuttora. Bene, lei ha una visione chiara, anche in senso escatologico. Sa quello che ci succederà, e io la invidio, è tipico delle persone di fede, e quindi si dà una spiegazione, come dire, solida di quello che sta succedendo, sapendo quello che succederà domani. Elisabeth, la ringrazio molto. Passerei invece a un laico, come Gianenrico Rusconi, che è professore di scienza politica all'Università di Torino, editorialista della Stampa, e si è pronunciato su queste questioni di questi giorni in modo piuttosto chiaro. Rusconi, prego. Ricorda Ferrara 2 anni fa la faccenda di Ratisbona? Sì, certo. Lì si era già definito in termini diversi questa tensione. Gaffe comunicativa o problema reale? Adesso si è riproposto in termini molto più drammatici e stiamo dicendo tutto sommato che non è una semplice gaffe comunicativa, ma è davvero un problema teologico, sì, ma a me non spaventa questa paura, sa che dico ai miei amici laici facendo saltare sulla sedia che dobbiamo essere competenti in cose teologiche, ma competenti in cose teologiche significa anche fare un discorso storico, filologico, critico, e anche qui torno a Ratisbona, ricorda il discorso ellenizzazione, diselenizzazione? Allora, il problema è che storicamente c'è stata un'evoluzione, è Paolo di Tarso che introduce certi elementi, quindi trovo un po' ingenuo, ma lo dico senza cattiveria, sentire come la scolatrice precedente che citava come se niente fosse la Bibbia, no? Mentre noi laici, pure rispettosissimi delle religioni, abbiamo una visione, come dire, più critica, più filologicamente documentata. Le cose che diciamo oggi sarebbero state inconcepibili nel secondo secolo, nel terzo secolo o nel diciottesimo secolo, no? Certo. Quindi ho una visione, diciamo, che viene chiamata storica, ma non nel senso banale storicista. Dopodiché lei ha posto molto bene il problema e abbiamo già tutto sommato risposto. È una questione per certi aspetti non risolvibile. Poi lei ha parlato con molta così semplicità di cristiani, ma lei sa molto bene che è una definizione impropria. In Germania, per esempio, c'è una reazione delle due chiese su rispetto a questo episodio molto molto diversa. Lei intende dire dei cattolici e dei protestanti? Sì. Poi sono anche loro, come sa, molto articolati, sì, all'interno, oppure anche, certo, un personaggio come Hans Küng. Bene, Manuel da Milano, la questione che stiamo discutendo è la Chiesa, gli ebrei, i dolori che sono stati evocati di recente dopo che un vescovo tradizionalista riammesso nella comunione ecclesiale, almeno parzialmente, ha detto le cose che ha detto sull'inesistenza delle camere a gas, cioè ha dato sfogo, diciamo, a questa sua follia fideista contro i dati della storia. Manuel da Milano ha un punto di vista diverso dal solito, per questo gli chiedo di dirlo. Dice che è una questione puramente politica. Manuel. Buongiorno signor Ferrara, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. In che senso lei dice? Io parlo da giovane e laico, e, diciamo, non conosco molto bene le scritture, non conosco molto bene la Bibbia. Però leggendo i giornali mi è sembrato che la questione abbia molto poco di teologico, soprattutto per un motivo, perché al signor Williamson non si contesta una tesi che è principalmente teologica. Il signor Williamson non ha un atteggiamento revisionista verso l'ebraismo, ma un atteggiamento revisionista verso quella che è stata la vita del popolo ebraico, verso quella che è stata la storia del popolo ebraico. Per cui riammettere nella Chiesa, anche se formalmente attraverso l'inizio dell'operazione di revoca della scomunica, mi pare che con la teologia non abbia niente a che fare, soprattutto perché... ma lei dice una questione politica, in che senso politica? È una questione politica perché, soprattutto anche per il momento, perché il fatto che questo provvedimento arrivi o comunque provi ad arrivare in questi giorni in cui appunto il dialogo ebrei-chiese è molto vivo e molto anche combattuto, diciamo, lascia qualche sospetto sulla natura di questa revoca della scomunica che ho capito, quindi lei propende più da molto tempo, insomma, certo. Strumentalità, gaffe, eccetera. Sentiamo, anche a scopo di pacificazione, l'opinione di un frate, Michele, dalla provincia di Pavia. Fra Michele, pronto? Pronto, Michele? Frate Michele? Non mi sente? No, allora, è caduta la linea con il frate, anche se io ce l'ho qui nella mia schermata. Vogliamo affrontare... Sì, eccolo, frate Michele. Sono frate Michele, sono un fogliante, ogni tanto infilavo nel tuo giornale, dottore. Sono torinese, Palazzo Campana, laureato, anni 65. Mi fa piacere, Sì, sono anche sacerdote. Ho sufficiente conoscenza del mondo ebraico per essere vissuto a lungo in terra di Israele, sono conosciuto anche nel mondo ebraico laggiù e quaggiù, e ho un'esperienza... un convertito dell'ultimo ora, 62 anni, sono entrato dai frati, fatto prete a 41 anni, sì. Io ti dico che levigate un po' le parole, il lessico, i glossari proprio, perché è improprio, ma parlo non di parole, di sostanza, è improprio parlare di dialogo interreligioso, perché il cristianesimo, chiaramente, non è una religione, assolutamente non è una religione, è un incontro, scontro vitale con l'uomo Dio, con un ebreo che 2000 anni fa è morto ed è risorto. Certo, della certo. Chiesa avviene questo ed incontro. È per questo, ed è per questo, frate Michele, che le tempistiche di questo incontro le stabilisce soltanto lui. È un incontro che ti afferra, ti prende e non ti lascia più. Lo so, noi alla radio dobbiamo parlare di una tempistica più mondana, più terrena. Frate Michele, la ringrazio naturalmente molto di questo giudizio. Vorrei fare quell'altra domanda però. Rusconi, secondo me c'è malevolenza, c'è inimicizia verso la Chiesa Cattolica e il papato di Ratzinger. È una malevolenza molto diffusa, è un'inimicizia molto diffusa, la si vede sempre di più emergere. All'inizio c'è stato lo shock con Wojtyla, le cose erano... Wojtyla abbracciava tutto il mondo nella sua forza ed energia personale, carismatica, è stato un lungo papato, è stato molto contrastato, anche Wojtyla è stato molto dannato, diciamo, dalla cultura laica, no? Contemporanea, dalla cultura del secolo, dal secolarismo, però poi alla fine ha travolto un po' tutti con quello spirito profetico, il rapporto con i giovani, la rivitalizzazione della Chiesa, i suoi grandi viaggi, insomma era un apostolato difficile da contenere. Con Ratzinger, che è più freddo, che è teologo, che esercita il magistero in forme acute, affilate, secondo me anche molto calde, anche piene di sentimento, però insomma da teologo, la rabbia sta montando sempre di più. C'è una forma proprio... Il Papa viene combattuto, io credo che questo debba essere riconosciuto. E questa questione dell'ebraismo, del Concilio Ecumenico Vaticano II, allora tu vuoi praticamente rimettere la Chiesa sotto il tallone dei tradizionalisti, fare come se il Concilio non ci fosse stato, mi sembrano veramente espressioni molto strumentali di un attacco polemico alla Chiesa. Sbaglio? Ma non è sbaglio, probabilmente il suo punto di vista conferma questa impressione. È chiaro che personalmente non ho questo atteggiamento, cerco di capire come mai diciamo colleghi o amici hanno un atteggiamento sì di maggiore freddezza, ma perché c'è anche il reciproco. Se lei pensa la brutalità con la quale vengono respinte le opinioni diverse, qui come dire cambiamo registro quando si parla di aborto, quando si parla di altre problematiche bioetiche, cioè in realtà diciamo pure Ferrara che in questi 2 o 3 anni è peggiorato complessivamente il rapporto dialogico tra le parti, no? Si è appesantito, si è insomma tu critichi il Papa e su certe cose e sei contro Dio, la miseria, beh, che cos'è questo salto? Quindi il dispiacere, sono un po' patetico, è che in realtà non c'è più dialogo ormai da parecchio tempo e lo scambio è, si è incattivito chissà poi perché chissà poi perché, forse perché abbiamo toccato il fondo, non facciamo più i cicisbei o di tempo fa, non so se riesco a spiegarmi, quindi non è che voglia fare volevo introdurre un altro elemento parlandone un attimo con Israel e poi arriveremo a Magister. Dunque il punto è questo: Israel ha scritto un articolo secondo me molto lucido recentemente nel quale diceva nella Chiesa sono aperte delle ferite, una delle ferite è l'interpretazione da dare del Concilio. Il Concilio è stato il grande evento novecentesco della Chiesa, ha chiuso con la serie dei papi Pio, no? Pio X, non a caso la fraternità di Lefebvre si chiama fraternità di San Pio X, il papa che aveva lottato contro il modernismo, Pio X, Pio XII soprattutto. Il Concilio chiude con questa lunga serie di papi che diciamo, si ricollega a Pio IX e al conflitto tra la Chiesa e la modernità, quello terribile, quello che praticamente l'idea che i massoni avessero portato via alla Chiesa i suoi territori, i suoi beni e volessero schiacciarla, distruggerla anche dal punto di vista carismatico. Benissimo, il Concilio dice no, la modernità, l'aggiornamento, l'incontro con il mondo, eccetera. Sull'interpretazione del Concilio c'è una discussione nel seno della Chiesa. Martini la pensa in un modo, Ratzinger la pensa in un altro modo, su questo mi pare non ci sono dubbi. e sono naturalmente tutte le ermeneutiche cosiddette del Concilio autorevolmente sostenute e legittimamente sostenute. Nell'ambito di questo scontro, la questione della libertà religiosa, dunque del rapporto con gli ebrei, dunque della fine dell'antigiudaismo cristiano, che è stato un'acquisizione importante, direi forse quella decisiva del Concilio Ecumenico Vaticano II, viene brandita come un'arma anche diciamo nelle polemiche interne alla Chiesa. Per cui si arriva a questa follia di dire che Ratzinger, che è il teologo che ha più fatto fino all'ultimo libro su Gesù di Nazareth per stabilire un contatto fecondo proprio nella radice con gli ebrei, è colui che vuole riportare all'antigiudaismo la Chiesa. Israel. Ma io penso questo, cioè che appunto i primi decenni del dialogo a partire dalla nostra età ebraico-cristiano sono consumati, cioè quella è una fase fondamentale, però se vogliamo usare un aggettivo un po' forse eccessivo, ma insomma una fase ormai la possiamo dire retorica, di bontà, di comprensione, bisogna andare oltre, questa secondo me è la grande... il grande passo avanti che ha fatto Ratzinger, che non solo io, ma molti rabbini, a partire da Neusner, hanno apprezzato e che si è visto già nel 2001 con il saggio sul popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana. Questo non piace a molti, non c'è dubbio, insomma le posizioni di Martini sono delle posizioni a mio avviso che sono molto più... tendenti all'idea della conversione, io le trovo meno accettabili, insomma, mentre quelle di Ratzinger mantengono questa giusta distinzione. È chiaro che è uno scontro interno al mondo cattolico, poi naturalmente anche all'interno dell'ebraismo ci sono molte posizioni differenziate. Io credo che ci sia da entrambi i lati chi preferisce litigare piuttosto che dialogare, e questo difficile passo avanti da un discorso di pura comprensione sentimentale a un discorso razionale e anche teologico porta a delle sfide così complicate che molti recalcitrano, questo è diciamo per quanto riguarda i rapporti. E poi insisto, c'è questo conflitto interno sull'interpretazione del Vaticano II che evidentemente dilania il mondo cattolico e in cui la questione dei rapporti con gli ebrei diventa dirompente. Emanuele da Como ha un'interpretazione su quello che è successo, sulla revoca della scomunica. Emanuele. Sì, buongiorno, è un piacere parlarle. Grazie. Ascolti, brevemente, cercherò di essere breve. Anzitutto il contesto storico in cui la revoca della scomunica avviene, e cioè le grandi ideologie sono venute meno. In ogni individuo occidentale tende a costruirsi una fede individuale. C'è la fede forte, accentrata, dottrinariamente, aggressivamente proselitistica dell'Islam che avanza e si allarga. C'è il secolarismo, il modernismo, il relativismo sempre più imperanti. La Chiesa cattolica propugna una fede, quella cristiana, che è una verità in quanto tale, non può ammettere una verità difforme. Tutto questo messo insieme fa sì che la revoca della scomunica vuole recuperare una ferita che era aperta sul lato, tra virgolette, destro della Chiesa cattolica, ma la vuole fare per portare avanti un arroccamento della Chiesa che si vede in tutte le sue fasi, le sue manifestazioni, e la scelta di difendere come dire, i baluardi più difendibili, che sono quelli tradizionalisti, più tradizionalisti. Sì, bisogna però dire la Chiesa che serra i ranghi, magari è anche vero, perché certo ogni tanto la Chiesa questo lo deve fare, deve ricompattarsi, deve ridefinire la propria identità. Ratzinger però è un teologo che, insomma, a partire dal suo ruolo anche come perito del cardinale Frings nel concilio, ha sempre colto gli elementi di divino, le ricchezze che ci sono nelle altre tradizioni millenarie della storia religiosa del mondo. Insomma, la verità è una, ma i modi di accedere alla verità, i modi di corteggiare la verità, di farsi illuminare dalla verità, possono essere anche diversi. Di Sandro Magister mi fido in modo, diciamo, lo considero quasi infallibile. È il vaticanista dell'Espresso, ma è anche l'autore di una bellissima, informatissima agenzia di informazione che circola in tutto il mondo, perché è un'agenzia di informazione online sulla vita della Chiesa, e Magister ha non soltanto accuratezza giornalistica, ma anche passione culturale nelle cose che fa. Magister, io, visto che ci siamo assunti la responsabilità di dire, lei se l'è assunta, io ho suggerito che questa poteva essere una strada, che insomma siamo di fronte a un grande disordine di governo curiale, ed è soprattutto il prodotto di questo ciò che è accaduto, perché poi appena il Papa ha parlato nell'udienza del mercoledì si è visto qual è il suo vero animo, è un animo di fraternità verso gli ebrei, è un animo di censura totale di ogni forma di negazionismo della Shoah, insomma il Papa ha parlato autorevolmente, però i tempi sono stati diciamo radicalmente sbagliati, tutti gli attori si sono comportati in modo tale da trasformare questo copione in un copione così con aspetti veramente scabrosi. Allora, che cosa può e deve fare adesso, secondo lei, il Vaticano perché c'è un viaggio del Papa in discussione? Ho visto che oggi il rabbino Laras, in un'intervista a Paolo Rodari del Riformista, dice: ma per me oggi quel viaggio non c'è. So che sta partendo una delegazione per andare in Vaticano, per Israele, e che questa delegazione dovrebbe discuterne i termini. La data è stata fissata ormai da tempo, ma chissà se questo viaggio fra 2 o 3 mesi ci sarà o no. Cosa deve fare ancora, secondo lei, il Vaticano, il segretario di Stato Bertone, Monsignor Rey, il cardinale che si occupa dei vescovi, insomma gli organi di curia importanti che governano la Chiesa, cosa ne devono fare per suturare questa ferita? Guardi, i fatti di questi giorni, le turbulenze di questi giorni confermano quello che dicevo un po' prima a proposito del disordine che circonda un po' gli atti e il magistero di questo Papa. È un po' una situazione paradossale che quella a cui ci troviamo di fronte. Abbiamo un Papa che ha una linea dal punto di vista razionale e anche di annuncio di fede, naturalmente, assolutamente lineare, assolutamente nitida e oltretutto riconoscibile, ma attorno sembra che ci siano, da parte dei suoi titolati collaboratori anche, ci sia una sorta di resistenza, sorda resistenza, o comunque forse a maggior ragione una incapacità di essere all'altezza della linea tracciata da questo Papa. Per scendere dal concreto, riferendomi ai fatti di questi giorni, non c'è dubbio che Benedetto XVI e prima di lui Ratzinger, da teologo e da cardinale, rappresentano a mio parere il punto più alto nella teorizzazione dei rapporti tra cristianesimo ed ebraismo. L'hanno rappresentato in particolare con il documento del 2001 sulle sacre scritture lette dall'ebraismo e dal cristianesimo, con una formidabile prefazione dell'allora cardinale Ratzinger, e poi nel 2007 con il libro Gesù di Nazareth, che ha dei passaggi straordinari, ecco, che riguardano precisamente questo rapporto. Bene, la linea è nettissima, quindi da un Papa come questo nessuno dovrebbe temere che egli entri in discussione con dei esponenti del cristianesimo scismatico come i lefebriani, che sul giudaismo effettivamente hanno delle idee assolutamente lontane dalle sue e molto problematiche dal punto di vista dell'ortodossia. È un Papa che darebbe sicurezza assoluta da questo punto di vista, invece succede un po' il contrario, che tutti attorno a lui si muovono come se bisognerebbe sempre difendere chissà quale terreno, non prendere le questioni con una certa decisione e così via. Tutto appunto dipende da questa debolezza, a mio parere, di governo della Chiesa mondiale. Il viaggio del Papa in Israele è appeso naturalmente anche a queste incertezze, perché è volontà sicura di lui personalmente di andare in Terra Santa. Ma appunto tante cose possono frenare la realizzazione di questo disegno, naturalmente tante cose che sono di carattere politico, che sfuggono completamente al suo controllo, ma ve ne sono altre che riguardano invece l'intenzione primaria, che non è politica ma è religiosa, del suo viaggio, e che riguardano appunto questa sua visione del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo, che non è da tutti ben accettata. Aggiungo soltanto un'altra cosa: Non bisogna però meravigliarsi che, avendo portato Benedetto XVI il rapporto tra cristianesimo ed ebraismo al suo nodo teologico centrale, che è poi il riconoscimento o no di Gesù come figlio di Dio, cosa che avveniva già quando Gesù era vivo su questa terra, ecco, nonostante questo abbiamo la sensazione che anche da parte dell'ebraismo sia in atto oggi, dell'ebraismo mondiale, una sorta di rafforzamento identitario, di rafforzamento dell'ortodossia, che fa sì che inesorabilmente, grazie anche a questo rafforzamento identitario, i rapporti con il cristianesimo diventino in qualche modo un pochino più difficili. Quindi c'è un po' di disordine, secondo lei, anche in queste decisioni così un po' occasionali dei diversi rabbinati? Partecipiamo alla giornata della memoria? No, non partecipiamo. Sì, andiamo al dialogo? No, proibiamo certo. Il dialogo agli altri, eccetera. Certo, Israel, lei che... scusi, Magistri, stava dicendo qualcosa? Sì, basti dire che la rottura, per esempio, della comunanza tra ebrei e cristiani in Italia sulla giornata della memoria precedente, quella italiana, sì, era stata fatta prima di tutto questo sconquasso, sì, certo, dell'efebrismo. Ed era stata fatta per la storia della preghiera del Venerdì Santo. Infatti. Israel, lei a volte, anzi è stato anche apertamente critico in lettere al Corriere della Sera di queste decisioni, come dire, di rottura del per esempio del rabbino di Venezia, del rabbino di Milano, del rabbino capo di Milano con la Chiesa Cattolica. Lei le ha trovate eccessive, le ha trovate sbagliate. Perché? Ma le ho trovate sbagliate appunto per eccessiva rigidità. Io condivido tutto quello che ha detto Magister dalla prima all'ultima parola. Penso esprimessero un atteggiamento di diffidenza più che un atteggiamento razionale, e devo dire che qui c'è si è manifestato qualcosa di specificamente italiano o forse europeo, perché nonostante le reazioni in questa ultima occasione del rabbinato israeliano siano state abbastanza decise, però è chiaro che lì l'apertura è molto maggiore, insomma, cioè la comprensione, basta vedere le dichiarazioni del rabbino Rosen o di altri, insomma, di quello che descriveva bene Magister, cioè del fatto che in realtà questo Papa ha portato un progresso nei rapporti con l'ebraismo, è sentita. Io credo che purtroppo qui scontiamo una sclerotizzazione dell'ebraismo europeo, e in particolare di quelli più piccoli, e è inutile negarlo, insomma, l'ebraismo europeo è stato distrutto dalla Shoah e oggi è un ebraismo anche abbastanza, diciamo, depauperato, che tende a quell'arroccamento che diceva Magister in forme anche più forti di quanto accada altrove, perché certamente in Israele o negli Stati Uniti esiste un ebraismo ortodosso, però esiste anche un ebraismo riformato, esiste un ebraismo laico, esiste di tutto, insomma. Certo. Dunque, dobbiamo chiudere con Rusconi e gli faccio una domanda semplice. Le cose che ha detto Ratzinger ieri sulla Shoah, sugli ebrei, sulla solidarietà del profondo dell'animo dei cristiani nei loro confronti, sulla reciproca interdipendenza e che diciamo risolvono il problema delle turbulenze di questi giorni e innestano un atteggiamento aperto di Ratzinger verso gli ebrei sull'insieme della sua teologia che ha come idea di base che l'ebraismo è il fondamento della fede cristiana, virgolette, detto, scritto da Ratzinger in qualità di teologo e in qualità di papa. Tutto questo, secondo lei, Rusconi, dirada la nebbia di guerra che si è stabilita intorno all'interpretazione del Concilio? Cioè, lei si sente sicuro del fatto che Ratzinger può avere idee diverse dalle sue, naturalmente, è un teologo nel quale magari lei non si riconosce, lei preferirà Kuhn, i riformatori, però... Ratzinger è uno che protegge la libertà religiosa fissata dal Concilio come nuova grande prospettiva della Chiesa. È d'accordo su questo? Certo, io personalmente sono d'accordo e appunto mi ha fatto piacere quello che ho letto oggi sui giornali, perché io vorrei ricominciare a dialogare, cioè non personalmente, con Ratzinger che parla di logos, di razionalità. Certo. Ecco, io vorrei, anzi, che dopo questo detour drammatico, ma l'abbiamo detto, probabilmente è più serio di quanto non sembri, si ricominci a parlare delle cose per cui questo Papa è straordinariamente diverso dai curiali e anche Israele, Israele parlava della, della modestia dell'ebraismo europeo, ma posso dire una cattiveria, anche la modestia della gerarchia cattolica italiana. Prendiamo questa cattiveria come una malizia, una polemica. Grazie a Israel, grazie a Magister, grazie a Rusconi. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Matela. Linea va a Gianluca Nicoletti, sono Giuliano Ferrara, l'Elefante, ci sentiamo domani mattina. Grazie a tutti.